I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Il ritorno delle stragi del sabato sera lo posso drammaticamente confermare. Mio figlio, 23 anni, è morto di ritorno da una festa con gli amici. Quando ho ascoltato la trasmissione settimana scorsa, ho voluto subito scrivere. Bisogna fare qualcosa. Cosa? Io non lo so. Lo confesso, lo faccio anche io. Guido e sbircio il telefono. E qualche volta rispondo pure ai messaggi. Lo fanno in tantissimi. Ma ora che ho sentito che la distrazione è la prima causa di morte, beh, sto cercando di non farlo più. Per come si guida sulle strade, soprattutto dentro le città, forse siamo anche fortunati. E la strage potrebbe essere ogni giorno più grave. I ragazzi devono capire che, anche se si sentono eterni, ahimè, anche loro non lo sono. Dire ai ragazzi che anche loro non sono invincibili e non sono eterni, anche se hanno il meraviglioso entusiasmo dei 20 anni e l'energia di tutta la vita che esplode. Credo che questo ascoltatore abbia toccato uno dei punti cruciali del ritorno delle stragi del sabato sera, il tema della consapevolezza dei rischi. Mi sono anche trovata a fare prevenzione all'interno delle scuole con dei ragazzi poco più piccoli di me, o più o meno miei coetanei. Che cosa racconta lei quando va nelle scuole e che cosa le chiedono i ragazzi? Se le devo dire la verità, fanno poche domande al riguardo. Non riescono neppure ancora ad immaginare le responsabilità e i pericoli che ci sono alla guida. Sara se lo ricorda com'era, perché ha poco più di 20 anni anche lei e negli ultimi tempi li ha incrociati più volte gli occhi dei giovanissimi neopatentati all'interno delle scuole. Ragazzi che casomai all'inizio hanno ascoltato le sue parole come se fosse la solita predica degli adulti sui rischi delle strade. Eppure Sara racconta loro di un altro coetaneo, racconta di Luca, suo fratello gemello. E quando quelle parole diventano persone concrete, con un nome, con una vita, che frequentavano gli stessi locali e casomai erano anche volti familiari per quegli studenti, allora tutto cambia anche nello sguardo di chi ascolta, perché in quelle scuole Sara porta la storia di Luca, suo fratello gemello, perso 5 anni fa. È successo nel marzo del 2015, in una tarda sera, dove mio fratello è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era il trasportato all'interno di questa autovettura, dove ha perso la vita, appunto. Com'è andata? Dove si trovavano? Che cosa è successo? Glielo chiedo perché purtroppo spesso capita che gli incidenti si ripetano e abbiano più o meno degli elementi in comune. In provincia di Latina, una strada periferica, malconciata, quindi non malmessa, diciamo così. C'erano delle condizioni climatiche non ottimali. Hanno perso il controllo della macchina, sono andati a sbattere contro una parete rocciosa. La macchina ha fatto più giri su se stessa. Mio fratello è uscito dall'autovettura. La cosiddetta banchina, i lati della strada non erano in condizioni ottimali e in condizioni meteorologiche pessime, quindi con la pioggia, è stato molto più facile, insieme alla velocità eccessiva, far sì che la macchina scivolasse. La maggior parte delle volte succede che c'è un combinato di velocità, distrazione. Sì, anche in questo caso è stata accertata una elevata velocità e l'assenza delle cinture di sicurezza. La guida è stata di ebbrezza. Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nel 2016, quindi non è stato contestato? No, ci sono ancora delle indagini in corso. Entrambi i corpi sono stati trovati fuori dall'auto e sul verbale i carabinieri hanno scritto, appunto, che non potevano dichiarare con certezza la responsabilità del guidatore. Perché non potevano essere certi di chi stesse in quel momento al volante. Esatto, nonostante la proprietà dell'autovettura, nonostante una serie di cose. L'altra persona, quello che è sopravvissuto, non ha detto di essere al volante lui? No, non si è assunto le proprie responsabilità, forse anche a causa delle condizioni con cui si era messo alla guida. La storia di Luca è la storia della maggioranza dei giovanissimi morti sulle strade per alcol, distrazione e velocità in prevalenza, come ci confermava già nella prima puntata di Storiacce la Polizia Stradale. E nel tempo hanno perso di efficacia anche quelle misure che erano state introdotte proprio per ridurre le morti dei ragazzi. Lo riconosce direttamente il vicequestore aggiunto Alessandro Abruzzini della Polizia di Stato. La maggior parte degli incidenti mortali si verificano di notte e di notte quelli che stanno più sulle strade sono i più giovani. L'efficacia di quelle misure che erano state prese appunto agli inizi del fenomeno delle stragi del sabato sera, piano piano hanno perso un pochettino di validità, di efficacia. Luca e il suo amico avevano bevuto quella sera, si erano divertiti e poi si erano messi alla guida per tornare a casa. La pioggia ha reso tutto ancora più complicato e le strade più scivolose. La macchina è andata a schiantarsi contro una parete rocciosa. Così quella è stata l'ultima sera di vita di Luca, 20 anni, come avete sentito dalle parole della sua sorella gemella. Chissà se in quel locale dove si trovavano c'era un etilometro, un apparecchio cioè per misurare il proprio tasso alcolico. Chissà se in quel caso Luca e l'amico, visto che le indagini non sono ancora chiuse rispetto alle responsabilità della guida, l'avrebbero poi fatto. Un tempo, quando le questioni delle stragi del sabato sera erano esplose nella loro concreta drammaticità, i TG erano pieni di immagini di auto accartocciate e di gioventù perse nelle lamiere. Un impatto emotivo che contribuiva però molto ai cambiamenti, all'introduzione cioè di misure contro la velocità, all'introduzione di nuove leggi e anche di controlli a tappeto nei locali. All'epoca, ad esempio, ricordo tante iniziative anche proprio di discoteche celebri per organizzare navette e riaccompagnare i ragazzi a casa. Si sa, per molte ragioni non si riesce sempre a fare tutto e allora anche l'impatto emotivo che certi fenomeni possono avere sull'opinione pubblica può influire sull'intensità stessa delle verifiche, come ad esempio nei locali. Laddove ci sono, ora spesso gli etilometri sono come nascosti e oltre allora ad intensificare i controlli c'è chi, come Francesco Cozzi, procuratore di Genova, uno dei magistrati più attenti al tema, sollecita anche l'impianto sulle auto di apparecchi per impedire, ad esempio, che possa guidare chi abbia bevuto. Almeno in certe circostanze andrebbero adottati dei dispositivi sulle auto che in qualche modo non ne consentano l'accensione, l'utilizzo, la partenza quando il conducente ha superato, diciamo, un certo grado di intensità alcolica. Ci sono dei rilevatori, tra l'altro c'è una direttiva europea che non ha avuto ancora i decreti di attuazione che impone, credo sulle autovetture nuove, l'adozione di un sistema del genere, si chiama Alcol Lock. C'è un comune di Genova, ad esempio, a Brugnato, dove hanno messo sul pulmino a disposizione degli alunni un dispositivo di questo genere per cui il conducente comunque è vaccinato. Quindi secondo lei dovrebbe essere introdotto normativamente, come sono stati resi obbligatori, sì, ad esempio i seggiolini antiabbandono per i bambini, adesso sì, faccio un paragone. Come sono i dispositivi che hanno alcune macchine oltre che sui seggiolini, quelli che segnalano il cambio di corsia, o più semplicemente anche avere a bordo un kit per la misurazione dell'alcol test sarebbe già un deterrente a livello anche psicologico. Li hanno adottati in Svezia, in Finlandia, credo in altri paesi, e non capisco perché l'Italia, che è uno dei pochi paesi che non ha rispettato la diminuzione delle morti per incidente stradale imposta dalle direttive europee, non si ponga un problema di questo tipo e tutte le volte invece stia a piangere morti. Questi dispositivi avrebbero cambiato la sorte di Luca. Sara, la sua sorella gemella, e i suoi genitori non lo sanno, ma si arrovellano ogni giorno nel loro dolore e nel pensiero di tutto quello che sarebbe potuto essere. E tutto questo cercano di condividerlo con altri giovanissimi nelle scuole. La nostra vita, la mia vita è cambiata da quel giorno, purtroppo. Io avevo appunto, come mio fratello, compiuto da poco 20 anni e avevo una visione della vita e del pericolo della guida completamente diversa. Quando esco con le mie amiche anche nel weekend, se so che devo guidare, non devo bere, sono vicina ai miei genitori. Io non so cosa significhi perdere un figlio a 20 anni, ma lo vedo tutti i giorni nei loro occhi. Quindi ogni qualvolta che esco cerco di mettermi alla guida, di fare strada responsabilmente. Questo lo immagino, e questo è anche un bel messaggio che in qualche modo si può mandare anche a chi ci sta ascoltando, e molte persone ci ascoltano proprio dalla macchina. Lei racconta nei licei la vostra storia, la storia di suo fratello, anche per mettere in guardia questi ragazzi. Proprio per questo cerco di fare prevenzione e di sensibilizzarli, di ribadire loro quanto sia importante non assumere droghe, non bere, allacciarsi la cintura di sicurezza e soprattutto non utilizzare gli smartphone, che ormai fanno parte della nostra vita appieno. E che, ahimè, purtroppo sono, e i numeri lo confermano, la prima causa di incidenti. Sì, proprio per questo. Una strage si consuma tuttora sulle strade, 3.300 le vittime nell'ultimo bilancio conosciuto, ma tantissimi sono anche i feriti e spesso anche molto gravi. E viste anche tutte le battaglie giudiziarie e normative che si hanno dietro ogni incidente, allora spesso le famiglie, affrante nel loro dolore, si espongono anche al rischio di truffa. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. I racconti di storiacce. Jacopo aveva 27 anni, stava recando al lavoro quel maledetto giorno del 10 di ottobre 2018 e purtroppo non è mai arrivato al lavoro perché all'incrocio di Viale Brenda purtroppo il semaforo era fermo ed è arrivato un tir e l'ha preso in pieno. Lo ripete più volte il racconto di quella mattina. C'era il sole, c'era una temperatura ancora mite. Era una delle ultime belle giornate prima del lungo inverno milanese. Il sole di quella mattina aveva trasmesso entusiasmo a Jacopo, che andava con ancora più gioia verso il lavoro. Un lavoro che gli piaceva tantissimo e lo caricava di felicità. C'era il sole e Jacopo decise di andare in moto al lavoro. Arriva a quel semaforo, poi tutto si ferma. Quel 10 ottobre ha cambiato tutto per Anna Maria, la mamma, e per tutta la sua famiglia che, accecata dal dolore, nel tentativo di capire cosa fosse successo, poi è finita anche nelle mani sbagliate. Non ancora abbiamo saputo esattamente come è successo, perché come lei sa le cose vanno molto a rilento, poi si sono complicate, poi inizialmente siamo stati un po' truffati. Per quello che vi è stato possibile ricostruire fin qui, che cosa è successo? È successo che questo camion l'ha tirato sotto. Lui era fermo al semaforo ed è arrivato questo tir e si sono fermati tutti e due, erano fermi al semaforo. Quando il semaforo è scattato il verde che dovevano ripartire, l'ha agganciato in qualche modo, non si sa, e l'ha tirato sotto. Pista, mi hanno detto che stava andando via, l'hanno fermato le persone gridandogli fermati che hai ammazzato un ragazzo, e lui si è fermato proprio nel mezzo dell'incrocio, perché l'autista dice lui che non se ne è accorto di niente, ma a me mi sembra strano, la cosa che uno investe una persona, non ti accorgi, stava proseguendo il suo cammino. Lei è andata a voler incontrare l'uomo che guidava quel camion quel giorno, e come è andato questo incontro? Io sono andata ad incontrarlo, io ho supplicato il responsabile dell'azienda dove mi faceva incontrare appunto questa persona, perché io volevo sentire da lui come era successa la cosa, ma lui non mi ha dato nessuna spiegazione, era una mummia imbalsamata. Ha detto che lui non si è accorto di niente, non ha visto niente, non sapeva neanche di averla a fianco, ma invece ha cambiato versione quando è stato davanti ai giudici e davanti a chi l'ha interrogato. L'introduzione del reato di omicidio stradale ha cambiato molte cose nella gestione all'interno delle aule dei tribunali dei processi per incidente stradale. Nella vicenda di Luca, ad esempio, che abbiamo sentito nella prima parte, l'iter giudiziario è stato reso più complesso anche dall'assenza di questa norma. Spesso chi affronta un lutto vuole sapere innanzitutto il perché di quel dolore. Per questo la mamma di Jacopo è andata di persona ad incontrare chi guidava il camion che ha investito il figlio. Per questo lei è anche finita nelle mani sbagliate, insieme alla famiglia, che hanno reso, a quanto denuncia, tutto ancora più complicato per ricostruire i fatti. Inizialmente siamo stati un po' truffati da un'associazione che non è un'associazione, in poche parole. Questa associazione ci ha contattati telefonicamente e in quei momenti eravamo nella disperazione totale, ci siamo fidati ciecamente, ci siamo cascati proprio pienamente in tutto ciò, era perché loro miravano all'assicurazione. Vi avevano promesso una assistenza, diciamo, anche... Tutto ci avevano promesso di tutto. Un'assistenza psicologica, legale. Sì, certo, tutto, ripeto, tutto. Alla fine non c'è stato niente di tutto ciò. E per giunta ha allungato i tempi che purtroppo ad oggi ci hanno messo i bastoni tra le ruote. Noi non ne stiamo venendo a capo di questa situazione, proprio perché allungando i tempi diventa tutto più difficile, certo. È diventato tutto più difficile. Come è andata, come non è andata. Al di là di questo caso specifico, le truffe del dolore, ahimè, non sono così rare in molti settori. La vulnerabilità delle vittime trova spesso riparo all'interno delle associazioni che raggruppano allora persone con esperienze e battaglie condivise. Sul mondo della strada, una delle ultime battaglie è introdurre fin dall'inizio nelle scuole guida più consapevolezza sugli incidenti. E poi, come già diceva il procuratore di Genova Cozzi, introdurre strumenti per impedire tout court la guida di chi non fosse in grado di stare al volante. Tutto questo è stato messo nero su bianco in quest'inizio di 2020 in una lettera al ministro delle Infrastrutture da Manuela Barbarossa, presidente di AIVIS, Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada. Abbiamo avuto il bisogno di scrivere dando delle indicazioni. Molte risposte ci sono state in questi anni, molte cose sono cambiate sulle strade, dai tutor della velocità ai controlli che guida dopo aver bevuto, fino all'introduzione del reato di omicidio stradale, ed infatti anche sono diminuite le vittime sulle strade, ma restano comunque troppe. Sì, è vero, delle cose sono state fatte. Se c'è ancora un'emergenza di incidenti stradali mortali o gravissimi, evidentemente quello che è stato fatto non basta. E allora secondo l'associazione, che cosa bisognerebbe ancora fare? Che cosa avete proposto al Ministero? Quella di introdurre nelle scuole guida un corso obbligatorio su proprio gli incidenti stradali, sul mostrare proprio all'interno delle scuole guida a chi si accinge a prendere la patente che cosa vuol dire subire un incidente stradale, e quindi iniziare a dare coscienza e sensibilizzazione su questo versante, perché come ho avuto modo di dire in diverse occasioni la vita sociale si è molto precocizzata. Oggi troviamo appunto giovani e giovanissimi che per esempio si accompagnano a persone che sono neopatentate limitate. C'è stato un incidente recentemente dove purtroppo un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, era in macchina e guidava un 18enne. Quindi si è precocizzata molto la vita sociale, i giovani e i giovanissimi sono particolarmente a rischio per il discorso anche dell'alcol e delle sostanze stupefacenti purtroppo, e quindi la prima proposta di introdurre, come dicevo prima, nella scuola guida un corso obbligatorio sugli incidenti stradali. Questo per noi è importante per creare coscienza e sensibilizzazione in chi si accinge a prendere la patente. Altre proposte che abbiamo fatto sono state quelle di utilizzare la tecnologia a favore della prevenzione, quindi di iniziare a pensare di equipaggiare le macchine con tutta una serie di tecnologie che ad esempio non consentano alle persone di mettersi alla guida ubriache o comunque non in perfetto stato di salute. Ci sono state tante proposte in questo senso negli anni, ma mai nulla da questo punto di vista è stato fatto. È proprio la sensibilizzazione l'elemento cruciale. È fondamentale la sensibilizzazione, perché comunque al di là di tutto chi si mette alla guida è l'individuo, è la persona, e è alla persona e all'individuo, alla sua coscienza, al suo senso di responsabilità, al senso anche di autoconservazione propria che bisogna fare appello. Poi tutto il resto viene da sé. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra con la regia di Andrea Roccabella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raff Calandra e su Instagram.